provo a esprimerlo così. Tutto ciò che l'uomo dice di Dio è un uomo che lo dice. Per trovare Dio io non posso partire da Lui, dove io, noi, non ci siamo. Occorre partire da noi, dove Egli è. Faccio una piccola parentesi, forse sarà anche sfuggito. Non vi siete chiesti perché quell'incontro simbolico tra palestinesi, israeliani e il Papa si sono trovati in giardino? Non era mica perché così era più fresco, è perché era un luogo universale senza immagini, per cui nessuno veniva offeso, né gli islamici né i cristiani, che se tagliassero un po' di immagini sarebbe ottima cosa, né gli israeliani. Per cui se noi andiamo subito col crocifisso, no? Con quel simbolo lì. Detto questo, devo aggiungere nel primo pensiero che però è vissuto uno chiamato Gesù Cristo, la parola, che ha attuato atti divini, quelli che ispirano fede, speranza, amore. Gli è stato chiesto: tu sei il figlio di Dio? Risposta: lo sono. Se voi mi conosceste, conoscereste anche il Padre mio. Siamo dentro in questa, non dico incertezza, perché, ma siamo dentro in questo non avere la qualità, la capacità, la possibilità di nominare Dio. Lo nominiamo troppo. Allora un secondo pensiero per entrare dentro nel significato di questa festa. Vediamo se riesco, sono pensieri tra l'altro che ho fatto già girare qui. Li ho raccolti perché mi sembrano importanti. Mi domando, se Dio è amore, deve amare qualcuno. Non esiste un amore a vuoto, senza l'altro, l'altra, gli altri, le cose. Ma chi ama Dio per essere definito amore? Gli uomini? Ma gli uomini esistono da alcuni milioni di anni. Non più il cosmo, l'universale, ma l'universo esiste da alcuni miliardi di anni. Prima di allora chi amava Dio per potersi definire amore? Se amore dice relazione. Non possiamo dire che amava se stesso, se no è come dire che è un narcisista, insomma, no? Un Dio narcisista che guarda se stesso. Dio è amore perché dall'eternità porta dentro di sé, ha in sé un figlio. Poi questa immagine qui, ma dobbiamo non equivocarla, cioè la parola, il verbo, che ama con un amore infinito, cioè l'amore è lo Spirito Santo. Provo a sottolineare un pochino perché ha detto così, e voi me lo insegnate, eh? In ogni amore ci sono sempre tre realtà, o se volete tre soggetti. Uno che ama, uno che è amato e l'amore che li unisce. Il Dio cristiano è uno e trino perché è comunione d'amore. Nell'amore si riconciliano tra loro unità e pluralità. L'amore crea l'unità nella diversità. Non per nulla nel creare la prima coppia umana, Dio disse: facciamo l'uomo e la donna, non l'ha detto la donna, ma era compresa, a nostra immagine e somiglianza. E faccio un terzo pensierino, conclusivo peraltro. Io credo che sia arrivato il tempo in cui la fatica, tra virgolette, che dobbiamo compiere come credenti, non è quello di guardare il mistero della Trinità con il bisogno di comprendere con la ragione, per quanto alta possa essere, ma è quello di farlo diventare, il mistero della Trinità, il modello della comunione umana, della convivenza umana. Questo è il punto. La realtà delle tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo, uguali e distinti, che formano un Dio solo, è il modello della convivenza, della comunione umana. Tradotto, questo vuol dire che a tutti i viventi vanno riconosciuti la dignità di persona. E quelli che sono in fondo al Mare Nostro, e quelli che sono oggi, questi giorni, dentro, nelle fosse comuni, nella liberata Iraq, e quelli che da Parigi vengono imbarcati per restituirli chissà dove. Hanno dignità queste persone, per dire le contraddizioni. Quindi la dignità di persona aggiunta alla radicalità dell'uguaglianza. E l'originalità della distinzione. Ora, se ci pensiamo bene, è in questo riconoscimento che si annida la matrice di ogni valore vissuto. È qui dove si annida il segreto della armonizzazione dei contrapposti e quindi della pace. È qui che nasce la speranza del mondo nuovo, della coscienza, cioè che tutti gli uomini della terra sono persone uguali, originali, irrepetibili. E qui devo dire, quando uno di questi tre termini a uno di questi tre termini viene inferto un ictus, si scatenano le disuguaglianze delle persone, il male, la guerra, la disperazione, l'indifferenza e così via. Ho portato con me un paio di articoli, di interviste che si rifanno a quella sera della Pentecoste nei Giardini Vaticani. La preghiera, un lampo di luce, ma noi israeliani siamo sfiduciati. C'è un commento di un altro scrittore palestinese, Amos Oz, il mio appello ai fanatici, non trascinate Dio nelle dispute immobiliari. E poi c'è un altro, comunque chi vorrà lo leggerà. Voglio chiudere, avevo preparato un pezzo di salmo, ma preferisco questa preghiera di Teilhard de Chardin, questo gesuita, archeologo, scienziato, teologo, massacrato dalla Chiesa, poi recuperato, ormai era un fossile anche lui. Prega così: Dio nostro, tu sei al centro di tutto e tutto circondi. Tutto si curva al tuo passaggio, gioie, progressi, dolori, fallimenti, errori, opere, preghiere, bellezze, potenza del cielo, della terra e degli inferi. E tutto mette la propria energia a servizio del tuo spazio divino. E tutto mette la propria energia, anche il fiore, a servizio del tuo spazio divino. E da esso tutto è pervaso con potenza. Tu non distruggi le cose e neppure le forze, le liberi, le orienti, le trasfiguri, le animi, non le abbandoni, ma ti appoggi su di loro e avanzi trascinando con te ciò che in loro è bello e santo. Donaci la purezza di cuore, la fede, la fedeltà, perché con questi doni si costruisce la nuova terra e si vince il mondo in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Possiamo innalzare l'inno. Gloria a Dio nell'alto. Grazie a te, Signore.